Thank you.

chi? Viva, ci siamo! E chi? Creta, creta! E chi? E chi? Al solito! Maledetto quel balordo! Non intende ancor vista! Che star con di tinte scoppia! Non mi muovo io di qua! Maledetto quel balordo! A non intende ancor vista! Due soperi! E chi? Nelle vene un poco più non mi so frenar, no, no, mi so frenar, no, no, mi so frenar. Zitto, freno, zitto, freno, un poco di stetto, un poco di stetto, agitato, agitato, Zitto, zitto, Bye. Pataci. Pataci, che mai sento? Pataci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, Pataci. Che vuol poi significar? Accolo che mai non sanno disgustarsi col ben stesso. Ma tutti i nostri italiani vuol tener dal paese per Isabella. Il mio pieni senza alfa. Ah, saria bella, ma con quel mezzo termine? Per far la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci ed altri qui a suo tempo verranno sopra il macello. Il gioco più bello non si può far. Eccola per Bacco, se con gli schiavi ancora. Nero sicuro. Quanto è brava tu sei. Con due parole agli sciocchi fa fare quello che vuole. Thank you.

Papà Taci!

的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。